Dopo la lezione di Guido Balduzzi, gli studenti si affrettavano a lasciare i banchi verso l'uscita. Soltanto quelli che facevano la tesi con lui, se avevano qualcosa da dirgli, si avvicinavano alla cattedra. Silvia, seduta, raccoglieva le dispense, gli appunti e li chiudeva nella cartella. Guardava il professore intanto, lo ascoltava parlare con quella sua mite voce che suonava monotona da prima e poi penetrava proprio per quella sua lentezza armoniosa. I capelli di lui, bianchi, brillavano sotto il chiarore della lampada. Dietro le lenti, gli occhi turchini guardavano con benevola fermezza. La ragazza stava andandosene quando egli la chiamò. Custo! Silvia si volse, si guardò attorno. Io? Si preparava alla tesi con lui, ma soltanto poche volte egli le aveva parlato. Sì, lei? Non ha da chiedermi nulla stasera? Ah, grazie, no, niente, professore. Io sì, invece, avrei qualche cosa da chiederle. A me? Proprio a lei. Potrebbe venire da me domani? Domani facciamo alle 4? Oh, certo. Non ha da fare a quell'ora, vero? Non ha da studiare. No, no, davvero, professore. Bene, allora ci vedremo domani. Il giorno dopo alle 3:30 Silvia era già a casa di Belluzzi, il quale abitava in una vecchia casa al centro di Roma. L'ingresso dell'appartamento era vastissimo, pieno di statue, di pezzi di archeologia. Ella lo aveva percorso intimidita, dietro la cameriera, cercando di fare camminando il minimo di rumore possibile. Entrò in una grande biblioteca dall'alto soffitto dipinto che aveva le pareti rivestite di scaffali zeppi di libri. Vi stagnava un silenzio austero, come se ivi pesasse la fatica di quelli che avevano scritto quei volumi. Vecchi libri, autori morti, sepolti, ma quelle loro ore di lavoro erano ancora lì, restavano, non erano state inutili, come tante altre ore adesso inghiottite dal nulla. La tiepida luce del pomeriggio maturo sfiorava i dorsi dei libri, ravvivava i fregi, oro sull'oro. Nel fondo c'era la porta chiusa, chiusa dello studio del professore. Chissà che voleva da lei. Forse voleva dirle: lasci stare, custodia retta, ma torni al paese. Cosa poteva ancora avere da dire a lei di fronte a tutto quello che già era stato scritto? Quale parola nuova avrebbe potuto dire? Sollevare l'umanità. Quando si diceva questa frase, Xenia rideva. Ah, è troppo pesante, nessuno la solleverà mai. Xenia, certo, se n'era andata per amore. In fondo le donne pensavano soltanto all'amore. A Silvia l'amore pareva un sentimento angusto, egoistico. Se avesse dovuto scegliersi un mestiere, forse sarebbe andata in Asia a curare i lebbrosi. E invece era rimasta magata dai libri, cari libri, che a toccarli le davano brividi di gioia. Custo? Dalla porta Belluzzi l'invitava nel suo studio, ma non sedette dietro la scrivania come quando Silvia era andata da lui la prima volta per parlargli della tesi. Sedettero insieme sul divano. Egli le offrì un caffè? Oh, no, no, no, grazie. Prenda il caffè, è buono a casa mia. Parlava bonariamente e Silvia pensava che quell'uomo poteva senza difficoltà passare dall'austerità della cattedra all'ospitalità accogliente, paterna. L'ho fatta venire perché vorrei proporle una cosa. Io l'ho notata da tempo, signorina Custo, ella è molto intelligente, attenta e tenace. Oh, grazie, grazie. Lei farà strada. Silvia taceva e il suo volto si illuminava. I suoi occhi, sempre gravati di cerchi bruni, ora per la loro vivezza parevano schiariti. Un luminoso sorriso fluiva sul bruno della sua pelle, dei suoi capelli, del suo vestito. E io vorrei proporle di lavorare con me, ma segretaria non è la parola adatta, collaboratrice piuttosto. Ho sempre bisogno di fare nuove ricerche, di... Insomma, ho bisogno di una persona che mi capisca. Poi spiegò, che capisca, fece dopo una pausa. Ho avuto per molti anni con me una signorina, ma si è sposata questa signorina e pensavo che non avrei trovato da sostituirla. Poi ho visto lei, l'ho vista lavorare. Guardava adesso oltre i vetri della finestra le tetre case di faccia e giocava con le dita come alle lezioni. Lei vorrebbe, signorina Custo? Oh, certo, non so cosa dirle, professore. Beh, non mi dica nulla allora, non mi dica nulla e pensi a suo Natale. Io mi auguro che lei passi un felice Natale. Oh, adesso sì, professore. Bene, anche io sono soddisfatto. L'aspetto dunque dopo le feste. Il 7 gennaio? Va bene? Lei verrà qui alle 3. Le farò conoscere mia moglie. E sorridendo si alzò in piedi. L'accompagno, signorina. Per il suo compenso. Oh, non me ne parli, professore, non me ne parli, la prego. Come vuole, ne parleremo poi. Traversarono la biblioteca, la grande sala d'ingresso. Silvia, ansiosa di essere sola, si inchinò frettolosa e scomparve, e quando la porta fu chiusa, scese due scalini in fretta, poi come sfinita si appoggiò al muro e così rimase, una mano premuta sul cuore, a pensare. Non seguiva nessun pensiero preciso, lasciava che nel suo petto la gioia dilagasse, le si spandesse per le vene, le scorresse col sangue. Dopo un momento, adagio riprese a scendere e fu in strada. Poca gente passava nella stretta via. Silvia camminava inebriata, stordita, come una sera al paese che avevano sturato la botte del vino nuovo e lei ne aveva bevuto troppo. L'aria le sembrava creata per la sua gioia. Il vento le penetrava nelle nari, le pungeva gli orecchi e lei sorrideva beatamente come se già fosse al sommo della lunga scala e da lì potesse spiccare il volo verso l'infinito. Il 7 gennaio sarebbe andata a lavorare da Belluzzi, anzi a collaborare, lui aveva detto, e ciò la colmava d'orgoglio. Talvolta, quando usciva con le amiche, notava che gli uomini passando guardavano sempre Vinca o Emanuela e si sentiva umiliata, avvilita del suo fisico scostante. Ma iersera alla lezione Belluzzi, tra tante, aveva scelto lei, Custo, io, proprio io, sì. L'ho vista lavorare, lei farà strada. E per queste sue parole ella avrebbe voluto subito compiere qualche cosa di grande, sentirlo esclamare: mai vista una donna così. Molta gente passava nella strada accanto a lei, la sfiorava. Nessuno intuiva la sua contentezza. Piccoli gridi le si soffocavano in gola, la gioia le opprimeva il petto, sentiva la necessità di condividerla per alleggerirsene. Avrebbe chiamato le compagne, adesso. Xenia mancava. Valentina insisteva nel dire: Ho sognato Xenia che galleggiava sul fiume. Rivedeva gli occhi di lei, irrequieti, ingordi. Non me lo perdoni, Silvia, di aver fatto fiasco? Troppo severa era stata. E forse per quella, per tema di lei, del suo giudizio, se n'era andata. Le pareva adesso di riudire la voce di Xenia. Aveva il tono ironico che usava con le suore. Parli bene tu, che sei protetta da Belluzzi. Come avrebbe potuto spiegare? Io non ho chiesto niente. È stato proprio lui a chiamarmi, Custo. Forse neppure le altre avrebbero creduto. Nessuna avrebbe creduto. Bisognava scriverlo a papà e a mamma. Vado a lavorare con Belluzzi. Ma loro non sanno chi è Belluzzi. Non leggono i giornali, non capiscono tante cose. La mamma sempre scuoteva la testa quando Silvia parlava delle sue aspirazioni. Altra, le diceva, deve essere la vita delle ragazze. Chissà che non avesse ragione. Ma come rinunciare adesso? Papà e mamma, facendola partire, dicevano: tornerà, tornerà. Anche lei temeva di tornare, ma oggi non più, oggi no, sa che farà strada, l'ha detto Belluzzi. Una mano si è posata sulla sua spalla, una voce le ha detto: avanti, sì, è proprio come quando al paese i fumi del vino nuovo le salivano alla testa e le pizzicavano il naso. Le compagne, eccitate dai preparativi per la seduta di spiritismo, neppure ricordavano che Silvia era andata a parlare con Belluzzi e perciò accolsero senza stupore la notizia. Vinca le chiese: Quanto guadagni? E ciò lo offese. Soltanto Augusta capì. È un punto fermo per te questo, disse. E Silvia s'aggrappò alle sue parole. Vero? Tu capisci che è una certezza, però ho paura di deluderlo, di non essere quella che lui crede. Ma Augusta la rassicurò: No, tu non deluderai mai nessuno. Tu sei quella che sembri. Nel frattempo le altre spingevano il tavolo in mezzo alla camera e il buio le sorprese prima che avessero avuto il tempo di preparare il lume. Valentina subito chiese sgomenta: Dove siete? E allungò una mano a toccare la più vicina. Vinca accese la lampada, la sollevò per allargare il chiarore, vederle tutte e chiese: Ma perché volete fare questo? Resteranno maledette le pareti. Ah, finiscila! Gridò Augusta. Hai tanta paura? Sediamoci! E Vinca posò il lume sopra la libreria. La luce pioveva sulle teste chine delle ragazze che, gli occhi fissi sulle dita, trattenevano il respiro. Tutte le mani, dapprima incerte, si stesero sul tavolino scuro, l'una accanto all'altra a cerchio. Valentina chiese: E adesso? Aspettiamo così, senza pensare a nulla. Sembrava a ognuna che il tavolino palpitasse, nessuna riusciva ad arrestare i pensieri che, incoerenti e tumultuosi, salivano a galleggiare dal fondo della loro trepidazione, come certe volte in chiesa, quando si chiude la faccia nelle mani, nascono in testa pensieri cattivi, ci si rimprovera, si sente una disperata volontà di scacciarli, e quelli, tuttavia, non se ne vanno, restano lì, imprigionati. Fu Augusta la prima a dire piano: Si muove! E il tavolo sobbalzò. Tutte di scatto tolsero le mani per riaccostarle poi timidamente. Che si fa adesso? Balbettò Valentina. E adesso? Oh, fai tu, Augusta. Si parlavano sommessamente come se qualcuno dormisse nella stanza. Augusta interrogò. Chi sei? E la sua voce uscì strozzata, intimorita da quella domanda sospesa nel buio. Tacevano le altre, trattenendo il respiro, aspettando quasi che una voce di suono non umano sorgesse dal tavolo. Si udiva bussare leggermente alla finestra. Impaurita, Vinca cercò uno sguardo per rinfrancarsi e Manuela le disse col solo motto delle labbra: E la pioggia! Oh, è vero che si muove! Esclamò Vinca e, tolte le mani dal tavolino, le incrociò sul petto. Ho paura! Dio mio, ho paura! Valentina, presa dal contagio, sollevò anche lei le mani. Le altre continuavano, attente. I loro occhi sembravano scavati dentro fosse livide e per il riflesso del lume si disegnavano sulla bianca parete ombre mostruose, teste di giganti. Il tavolo adesso si scrollava, urtando i ginocchi di Vinca e di Valentina, che stavano immobili, il sangue gelato nelle vene. Chi sei? Di nuovo chiese Augusta. Le due ragazze la guardavano ammirate, era molto coraggiosa. È difficile anche entrare in una stanza vuota e parlare da sé ad alta voce. Così, poi, terribile, con quella lampada, quelle ombre, parlare aspettando che un morto risponda dall'aldilà. Valentina e Vinca si cercavano le mani per fare delle loro paure una paura unica. Oltre le pareti, altre compagne dormivano. Nel silenzio ovattato dal loro sonno, s'udiva l'acqua crepitare sugli alberi della villa. Il lume a petrolio esalava un filo di fumo verso il soffitto. Valentina pensava: Perché abbiamo fatto tutto questo? Mentre con voce esitante Augusta insisteva: Chi sei? Il tavolo trabalzò. Tutte spiavano Augusta. Non era più la loro compagna ormai. La sua faccia era severa e smorta. Le gote che aveva pienotte parevano improvvisamente smagrite. Aveva acquistato un nuovo aspetto, non era neppure più come quando diceva: Da noi lo spiritismo si fa sempre al paese. Tutte la sbirciavano con diffidenza, pur senza distogliere gli occhi dal tavolo. Sei una donna? Emanuela avrebbe potuto giurare di aver sentito sotto le sue mani un affannoso respiro umano. La domanda di Augusta rimaneva librata nell'aria solenne. Sei un uomo? Dopo un attimo il tavolino dette un balzo. Sì. Un uomo in mezzo a loro, in camera di Anna. La camera fu invasa da questa presenza. Egli era dappertutto, dietro le spalle di Valentina. Stava per posarle una mano sul collo, una mano senza carne. Era appoggiato al comò e era lì, tutto bianco, incontro agli occhi spaventati di Vinca. Era supino, sotto le loro mani. Un morto! Pensò Emanuela e le parve orribile ciò che stavano facendo. Valentina temeva che la stanza venisse invasa dalle fiamme. Senza lasciare scampo, o forse una fandonia, Vinca credeva. Le compagne agitavano il tavolo per burla e dopo si mettevano a ridere. Un uomo, confermò Augusta, mentre la sua grassa mano seguitava a sfiorare il tavolino. Era macabro tutto questo. Emanuela si immaginò seduta a cerchio con le amiche attorno a un feretro. Un vivo imprigionato rispondeva bussando contro il coperchio, un feretro lungo come quello di Stefano. Oh, mai, mai era rimasta sola quella mattina. I quattro avieri sembravano di piombo nella loro divisa, rigidi, occhi distanti, l'arme al fianco, con le baionette nude che nello sbattimento della fiamma delle candele lampeggiavano. Come ti chiami? Augusta chiese. Anna supplicò. Basta, basta! Se un nome fosse stato detto, un fantasma d'uomo con quel nome per volto si sarebbe introdotto tra le pareti, mai più ne sarebbe uscito. Ogni sera rientrando l'avrebbe trovato ad attenderla col suo nome umano, preciso. Basta! Basta! Ma Augusta, inesorabile, contava i colpi che il tavolo picchiava sul pavimento. Anche Valentina e Vinca, strette, recitavano l'alfabeto senza suono. A, B, C, D. Il nome Emanuela l'aveva visto inciso sulla targa d'ottone della cassa. Comandante Stefano Mirovic. Sì, era il nome di Stefano, ma non era possibile che lui fosse morto e giacesse lì in quella cassa, levigata, con le borchie d'ottone polito dentro un mobile. Insomma, qui dentro non ci può essere Stefano. H, I, L, M. Emanuela non conosceva il viso di Stefano morto. Stefano morto. Parole che non avevano senso. Tutti possono essere morti, tutti meno Stefano. Sono cose che capitano agli altri. Impossibile che morisse lui, uno di loro due. Q, R, S. Non va più avanti. Nel silenzio pauroso la voce ora arrochita di Augusta chiedeva S? Affermava S. Dopo un'interruzione il tavolo ricominciò a sobbalzare e Augusta riprese A, B, C, D. I morti non rispondono, pensò Emanuela. Sono pazze costoro se credono di poter parlare con l'aldilà come per telegrafo. E la provava ancora sui ginocchi il freddo dell'impiantito dell'ospedale e intorno a lei, inginocchiata, tutto era immobile. La cassa, i soldati, i fiori, la grande bandiera stesa sulla parete, solo le fiamme dei ceri tremolavano. Ella mormorava, Stefano, fammi sentire che proprio tu sei qua dentro, o non lo crederò mai. Un segno, dammi un segno, e allora, solo allora crederò. A un tratto s'accorse che le parole le si formavano nella mente come una preghiera, come si parla a Dio, e allora capì che veramente Stefano era morto. E fu scossa da fremiti gelidi, le tremarono dentro il sangue e le ossa. S.T., un nome che comincia per St. Sempre rivolta allo spirito, Augusta domandò: Io chiedo e tu conferma, Stanislao? Steno? Stefano? A questo nome Emanuela scattò in piedi, scrollò il tavolo come per scacciarne qualcosa, staccò dal tavolo le compagne una a una, mettendo loro la mano sul petto e le vide alzarsi sorprese. Basta, basta! Gridò, basta! Questo non ve lo permetto! È uno scherzo, è una commedia! Vergognatevi! Non credo mica che sia vero! Se non ha risposto a me, non può rispondere a te, Augusta. La luce, chiedeva, accendete la luce subito. E sotto gli occhi stupefatti delle ragazze girò l'interruttore più volte a vuoto e la fioca luce odorosa di petrolio filava al soffitto in una lingua nera e molle. Pazze siete, pazze, cattive, come avete fatto a sapere? Poi aprì la finestra, cercando aria pura. Entrò un freddo, penetrante, umido. Ancora pioveva. Il cielo, che si vedeva al di sopra del telaio, era bianco, compatto di nuvole. Emanuela s'appoggiò al davanzale, piangendo, chiese: Perché m'avete fatto questo? I suoi singhiozzi si scandivano nel silenzio come un grido di uccello notturno. Le compagne, serrate in gruppo, si sentivano colpevoli, ma senza sapere di che cosa, forse dei nomi che avevano pronunciato, o più precisamente di quel penetrare nel mondo sovrumano. Stavano mogie come per una burla finita in tragico. Silvia per prima si mosse, si avvicinò a Emanuela, pur senza osare parlarle, chiederle. E quando la ragazza alzò la testa, la vide, avanti al gruppo delle compagne, muta, domandare la ragione di questa improvvisa pazzia. Allora lei spiegò, con la voce umida di pianto, «Ho perduto qualcuno che si chiamava Stefano». Silvia disse rattristata, «Scusaci, ma non lo sapevamo, non è stato uno scherzo. Emanuela, mai lo avremmo fatto. Dovevo immaginarlo, infatti, non ho più capito nulla. Era il tuo fidanzato?» Valentina le chiese. «Sì. Oh, no, una cosa di tanti anni fa, ma la coincidenza mi ha impressionata. Ti capisco, fece Silvia. Anche io questa sera ero agitata. Abbiamo fatto male. Cominciò a mettere a posto le sedie. Augusta pose di nuovo i libri, gli oggetti sul tavolo perché la stanza riacquistasse il suo aspetto normale e l'accaduto apparisse ancora più lontano e fosse cancellato addirittura. Sentivano la necessità di sapere di più. Valentina chiese con curiosità: Stefano si chiamava? Ed Emanuela chinò la testa. Assentendo. Nella notte il buio della camera di Emanuela fu pieno di quei colpi sordi del tavolo. A, B, C, D. La voce di Augusta riempiva i suoi orecchi come un ronzio. Piangeva. Allora non aveva potuto piangere per Stefano. Gli eventi non gliene avevano lasciato il tempo. Pianto sì, aveva, ma per ciò che avveniva attorno a lei, come quando si vedono le case abbattute dal terremoto. Papà l'accusava, mamma l'accusava, in fondo la morte di Stefano, più che come una tragedia, era caduta su di lei come una cattivazione. Stesa nel letto, supina, la pioggia aveva ripreso a cadere, monotona. Pareva il rumore di un corso d'acqua, un torrentello che scorresse oltre la finestra. Lampi rivelavano il cielo ferrigno, poi il buio ripiombava nella camera. Emanuela pensava a Stefano vivo. Quando l'aveva visto la prima volta, non immaginava che tutta la sua vita sarebbe mutata per lui. Non aveva avuto il tempo di amarlo veramente. Pochi mesi, 5 mesi, da quella sera che l'aveva conosciuto. A Firenze si parlava molto di lui, sempre ai posti più rischiosi, un asso. Veniva dal campo di Portorose. Le donne dicevano che era alto e bello. Lei, quando l'incontrò una sera a casa di amici, dovette riconoscere che sì, avevano ragione, doveva essere veramente un uomo straordinario. Il coraggio gli si vedeva negli occhi. Tuttavia, neppure si era sentita lusingata quando egli le aveva chiesto: «Balliamo tutta la sera insieme, io e lei?» Pensava che era cosa dovuta. Aveva un alto concetto di sé, Emanuela. Tutta la sera erano rimaste insieme e quando ella dopo mezzanotte si levò per andarsene, lui fece, rammaricandosi: «Oh, già a casa così presto?» «Sì, noi abitiamo lontano, a Maiano, sotto Fiesole.» «Fiesole», egli aveva ripetuto. «Non so perché questo nome mi ricorda sempre i quadri dei primitivi toscani. Ha una casa grigia? Un giardinetto con un cipresso?» «Sì.» E l'aveva risposto sorpresa, ridendo. Proprio così, una vecchia casa grigia e un giardinetto con un cipresso. Oh, è ciò che io desidererei avere. Ma noi non possiamo avere una casa, non sappiamo mai dove saremo il domani. Dopo qualche giorno l'aveva incontrato sul Lungarno. Era il crepuscolo e la voleva voltare al Ponte Vecchio, prendere la via del ritorno, ma allora era così bella che lei, indugiando, aveva deciso di proseguire e prendere l'altro ponte. 2 passi dopo, lui. Si scusò perché aveva la barba lunga, veniva dal campo. Oh, che importa, non si vede, Emanuela disse, e segretamente temeva che per questo egli la lasciasse subito. Invece, presero a camminare accanto sul Lungarno quasi deserto. Uomini a cavalcioni del parapetto pescavano con la lenza, immobili, come statue. Anche loro due si affacciarono al parapetto del fiume, guardando giù, sull'altra riva. Le case nascevano silenziosamente dall'acqua come a Venezia. Si parlava bene, così senza fissare l'uno gli occhi dell'altro, vagando con lo sguardo sul fiume, da lontano si vedeva il verde dei colli e anche le rive dell'Arno. Erano erbose e fresche. «Io conosco poco, molto poco, Firenze», diceva Stefano Mirovic, «ma ogni giorno ne vedo dall'alto le cupole. Quante chiese avete a Firenze?» E seguo l'Arno da lassù, seguo il corso del fiume come se andassi in barchetta. Beh, le presenterò Firenze allora, ella aveva detto con scherzevole ostentazione. Si vedevano spesso, quasi ogni giorno. Qualche volta incontravano gente di conoscenza per la strada ed ella era felice che vedessero Mirovic con lei. Era lusingata. Si studiava di apparigli diversa dalle altre, una donna superiore, un po' bizzarra e romantica. Si proponeva di piacergli e si accorgeva di riuscirci. Sentiva che egli cominciava ad amare in lei la graziosa maniera di muoversi, la calma sorridente degli occhi. Istintivamente ricercava per i loro incontri una cornice suggestiva che le desse risalto. Lo guidava in antiche chiesette romite, dove appena qualche donnetta stava inginocchiata. «È questo», Emanuela diceva, e gli mostrava sopra l'acquasantiera un piccolo San Giovanni, levigato, pulito, patito di vecchiaia, o una pala d'altare o un pergamo. Certe volte si sedevano sulle panche e poi restavano a parlarsi, bisbigliando, ridendo sommessi, 3, 4 persone nella chiesa, non di più. Una volta scesero in una cappella sotterranea, una cripta, c'era là sotto un freddo umido da sepolcro e solo una lucerna era accesa che diffondeva attorno una tremolante luce rossiccia. Era pauroso essere soli là dentro. Un grande Cristo bizantino sgranava le dure pupille nell'iride di un bianco lattiginoso e spalancava le braccia sopra la croce che pendeva sull'altare. Emanuela s'arrestò nel mezzo della cappella, incerta. La sua ombra per terra si stendeva all'infinito e Stefano era dietro di lei e le prese le spalle, quasi a darle coraggio. Restarono un attimo così, zitti, poi egli la baciò piano sulla nuca, dove gli ultimi riccioli formavano una lanugine appena. Stefano! Ella lo rimproverò a voce soffocata, intimorita dal sacrilegio. E poi insieme ripresero a salire la scaletta ripida che menava alla chiesa superiore, accosti, quasi abbracciati. Uscendo, trovarono che era giorno ancora e ne furono sorpresi. Stefano, nel salutarla, le diede del tu. Su, su, nel vecchio tramvetto che la riportava a Maiano, fermate, sobbalzi, campanelli, niente sentiva. Una febbre interna, gioiosa, le affluiva le gote, arrossandogliele. Entrò in casa. Papà e mamma erano già a tavola, via il cappello, occhi lucidi, denti lucidi, come buona la minestra!